Siete sempre all'ascolto di Radio Popolare. E questo è Rimandati a settembre. Studio Roberto Caselli e Paolo Magliocco. Eccoci qua, Paolo. Buongiorno Roberto. Allora, seconda puntata, siamo già arrivati alla seconda puntata dopo il nostro astrofisico. Oggi abbiamo un altro personaggio di rilievo. Dai, presentalo tu. Oggi parliamo di paleontologia, di dinosauri. Di dinosauri preistoria, animali antichi, quelli mitici, no? Quelli che fanno impazzire tutti quanti. Fin da bambini. E con noi c'è Cristiano Dal Sasso. Cristiano Dal Sasso, paleontologo che lavora per il Museo di Storia Naturale di Milano, quindi lavora per il pubblico, per un'istituzione, e anche di questo parleremo, delle sue difficoltà, magari di quanto sia importante questo lavoro e più o meno riconosciuto. Il Museo di Storia Naturale di Milano, ovviamente per i milanesi, è un'istituzione che ha un sapore particolare, no? È proprio il museo in cui si va con i bambini fin da piccoli per scoprire la natura e com'è fatta. Buongiorno Cristiano. Buongiorno a tutti voi. Allora Paolo, noi siamo arrivati appunto a questa seconda puntata e oggi dobbiamo sviscerare non solo quello che fa il nostro ospite, ma chi è il nostro ospite, come sempre, con le sue passioni, con i suoi piaceri, insomma, nella vita, per cui capire come è diventato scienziato, insomma, ci racconterai, Cristiano. Certamente, e partendo proprio dal museo, che è stato uno dei luoghi che fin da bambino ho frequentato. Va bene. Tu sei arrivato al Museo di Scienze Naturali quando? Dunque, io ci sono passato, diciamo, prima, da bambino, accompagnato dai genitori, in visita, come un visitatore generico, ma già catturato dalla preistoria. Sì, più che altro, ma una delle icone, diciamo, dei miei ricordi da bambino era un cranio di T-Rex, che poi scoprì che non era vero, ma era stato modellato da Luciano Menghi, un artista collaboratore, che fu collaboratore del museo e che fu anche la persona che fece il triceratopo. Ecco, il triceratopo, tra l'altro, è giusto quel triceratopo come è fatto? Beh, oggi possiamo dire che è anatomicamente superato, diciamo così. E ha una postura da tartaruga con le zampe messe di lato rispetto al corpo, mentre i dinosauri si caratterizzano, si differenziano da tutti gli altri rettili per avere zampe verticali al di sotto del corpo, in posizione colonnare. Oh, entriamo con i piedi nel piatto allora. I dinosauri, perché sono dinosauri e non qualche cos'altro? Non sono alligatori, non sono lucertole? Beh, i dinosauri hanno una parentela molto lontana con i coccodrilli di oggi, nel senso che sono rettili arcosauri e hanno quindi un antenato in comune con i coccodrilli preistorici, che anch'essi erano più nobili, diciamo così, di oggi, nel senso che anche essi camminavano spesso con le zampe verticali al di sotto del corpo. Le zampe verticali vuol dire come ce le abbiamo più o meno. Come le abbiamo noi, hanno anticipato i mammiferi in questa postura molto efficiente, che ha permesso ai dinosauri, per esempio, di diffondersi in tutti i continenti, di fare lunghe migrazioni, di acquisire un peso anche notevole, perché avere gli arti in posizione colonnare permette di scaricare molto bene a terra il peso del corpo. Certo. Quindi se le impronte sono dritte è un dinosauro, se le impronte sono con i piedi a papera, diciamo così, se sono un po' divaricate è più probabile che non sia un dinosauro. Quanti anni fa stiamo, di quanti anni fa stiamo parlando? Quando comincia? Beh, i primi dinosauri compaiono nel Triassico superiore, medio superiore, quindi intorno a 230 milioni di anni fa. 230 milioni. E sappiamo dove? In Argentina, antichi. Ah, in Argentina. Ah, però. Ce n'è forse anche qualcuno di nuovo e recente trovato in Africa di epoca simile. E da lì sono già bipedi, cioè iniziano con una postura ancora più avanzata delle quattro zampe a colonna, perché questi già usano gli arti anteriori per altro, cioè per catturare le prede, per afferrare rami e foglie. Senti, ma adesso dico una sciocchezza, l'Argentina è diventata famosa poi recentemente perché è dove sono stati trovati i dinosauri più grandi, più giganteschi, è così. Anche. Nascono giganteschi i dinosauri, no, o lo diventano? No, nascono piccoli. L'Argentina sta diventando sempre più famosa tra gli appassionati di dinosauri, perché è anche un po' una delle ultime frontiere, soprattutto la Patagonia, e i terreni, i territori, i giacimenti scavabili, perché c'è anche poca vegetazione, sono talmente estesi che naturalmente saltano fuori continuamente nuove scoperte. I più antichi dinosauri argentini non sono però nella Patagonia centrale, ma alla base della cordigliera delle Ande, dove affiorano rocce più antiche, che sono appunto del Triasico. Ma possiamo dire che nasce in un posto, nascono in un posto particolare o nascono in più posti i dinosauri? Probabilmente nascono in più posti in contemporanea. E però poi colonizzano un po' tutto il mondo. Però quindi da evoluzioni parallele? Sì e no, non si sa ancora. Insomma, però diciamo che forse è la stessa cosa in realtà, perché i continenti erano ancora uniti, per cui anche se ci sono, magari può essere che ci siano stati vari tentativi paralleli di verso il dinosauro, però comunque quel gruppo che ha avuto successo ha avuto facilità nel distribuirsi globalmente, perché non c'erano ancora i continenti separati. Era la fine della Pangea, diciamo così. Beh, insomma, quindi nascono piccoli. Nascono piccoli, nascono probabilmente carnivori e onnivori, e poi si differenziano nei principali gruppi. E diventano un po' di tutto. Diventano carnivori bipedi, oppure quadrupedi ed erbivori, col lungo collo, i sauropodi. Oppure l'altro gruppo grande, quello degli ornitischi, che sono tutti erbivori, però in alcuni casi sono bipedi, in alcuni sono quadrupedi, e nel corso della loro evoluzione verso il Cretaceo, quindi al massimo della loro diversificazione, poi sviluppano anche imponenti strutture di difesa come corna, corazze. Lo stegosauro mi viene in mente. Lo stegosauro, sì. Senti, 230 milioni di anni fa e arrivano fino a? Fino a 65. Poi dell'estinzione parliamo dopo, perché questo è un altro capitolo. Però da 230 a 65 sono un bel 170 milioni di anni. Sì. Tempo enorme. E noi dobbiamo ancora dimostrare di essere capaci di di riuscirci a eguagliarli. Sì, questa è una delle cose che dobbiamo imparare, perché nonostante tutto poi sono scomparsi. Senti, erano comunque, come dire, la specie, il genere dominante, insomma. Diciamo che tra i rettili sono quelli che hanno avuto la maggiore diversificazione, anche perché poi recentemente abbiamo scoperto che alcuni si sono adattati al nuoto, cosa certo, che sembrava un'eresia, ma quando abbiamo trovato e studiato il famoso spinosauro, che è stato anche protagonista di una mostra di Expo l'anno scorso a Palazzo Dugnani qui a Milano, e lì abbiamo capito che i dinosauri sono anche riusciti ad andare in acqua muovendosi bene, nuotando bene, catturando pesci, eccetera. Ma vivendoci sotto anche? Non naturalmente conservando i polmoni, quindi dovendo venire a galla per respirare, appunto, ma erano in grado anche di immergersi, perché per esempio lo spinosauro aveva ossa piene, non cave, e questo serviva da zavorra per evitare troppo il galleggiamento, quindi vuol dire che era un adattamento spinto alla vita acquatica, seppure nei fiumi e non nei mari. E poi altri, in direzione completamente opposta, hanno imparato a volare, quindi sono diventati leggerissimi, proprio i dinosauri teropodi carnivori, di cui appartiene lo stesso spinosauro, in realtà sono tutti con ossa cave, sempre più leggere, e arti anteriori sempre più allungati, perlomeno nella linea evolutiva che passa attraverso i velociraptor, da cui poi derivano quelli che noi oggi chiamiamo uccelli, ma che sono l'Archaeopteryx. Sì, no? Da quello in poi ci sono saltati fuori pettirossi, aquile, polli. Di tutto. E struzzi. 170 milioni di anni. No, ma volevo dire una cosa, ma allora questa cosa metterebbe la parola fine al mostro di Loch Ness in qualche modo, perché come fa a vivere sott'acqua con i polmoni? Beh, il mostro di Loch Ness non sarebbe un dinosauro, ma diciamo, secondo chi crede, sarebbe un plesiosauro. Sopravvissuto seppur da solo, cosa impossibile dal punto di vista biologico, per milioni e milioni di anni. Quindi in ogni caso non un dinosauro, ma poi voglio dire, biologicamente parlando è impossibile mantenere diversità genetica, eccetera, se non c'è una popolazione di almeno tot individui. Va bene, senti, io metterei un adesso stacchetto. Andiamo con il primo brano, perché anche perché ci riporta un pochettino all'inizio di questa avventura. Salty Dog, Cristiano, come mai Salty Dog? Procularum. Salty Dog era la sigla finale di Avventura, programma mitico della TV dei ragazzi che mi stregò, perché tra i documentari trasmessi c'erano delle interviste su si parlava di dinosauri. Allora, un errore di posizionamento, non era Salty Dog, abbiamo sbagliato, rimediamo subito. Eccolo qua. On deck, we've run afloat. I heard the captain cry, explore the ship, replace the cook, let no ships come home to die. No lofty peak, no fortress bold could match our captain's eye. So wide, she's so blue. Beh, curioso che The Salty Dog e The Procularum, in pieno periodo progressive, quindi rock insomma che andava per la maggiore, diventi una sigla della TV dei ragazzi e Cristiano rimanga affascinato proprio per vuol dire quelle dimensioni anche un po' naturali che ci sono presenti, no? Dicevi il volo del gabbiano, insomma queste cose. Sì, certamente evoca l'avventura verso i confini del mondo, la scoperta, il tentativo della scoperta verso l'ignoto, e tra queste cose c'era certamente l'esplorazione anche geologica, di cui parlavano nella trasmissione con uno dei conduttori, Mino D'Amato, che poi io conobbi durante il mio lavoro. E quindi, Museo di Storia Naturale, avventura, la televisione, io tra l'altro non ricordavo la sigla finale, ricordavo la sigla iniziale invece, She Came In Through The Bathroom Window, bellissima, cantata da Joe Cocker. Dei Beatles, originariamente. Esatto, dei Beatles, altro pezzo stravagante, ecco, attraversa la finestra del bagno, non è proprio una cosa per un i ragazzini. Un cucchiaio d'argento. Insomma, ma tu, come dire, in quei momenti lì della tua gioventù, della tua infanzia, poco più, insomma, no? Avevi anche delle altre passioni? Cioè... Sì, ero bambino, mi interessava molto il mondo della natura. Mi sarebbe piaciuto anche nel futuro, tra le mie idee di lavori ipotetici, c'era, non so, lavorare in un parco nazionale oppure nella Guardia Forestale. Ho sempre comunque avuto la tendenza verso gli ambienti naturali. L'idea era quella già fin da bambino, mi sembra. Sì, però non ero, diciamo, un patito inquadrato mentalmente soltanto nel mondo della preistoria. Non raccoglievi le foglie ancora, no? Non le catalogavi ancora? No, qualche insetto, ma... queste cose qua. Non ero un naturalista di tipo un po' così enciclopedico, no, ma avevo tanti interessi, non solo questo. Invece la tua carriera scolastica, cosa hai fatto? Il liceo? Io ho fatto il liceo classico, a dimostrazione che non avevo comunque ancora le idee chiare, anche se c'era una componente del mondo classico, l'archeologia, che mi catturava in modo simile. E poi ti sei iscritto all'università? E poi ho fatto scienze naturali. Scienze naturali. Qui a Milano, alla Statale, in via Celoria. In realtà noi naturalisti migravamo Città tra... Studi. Sì, andavamo... appunto a fare lezione tra le aule di geologia e quelle di biologia. Sì, anche se biologia non c'era ancora forse, perché girava anche lì, no? No, però diciamo che le scienze naturali era proprio una facoltà costruita a metà tra le due, non c'era fisicamente la sede di scienze naturali e quindi dovevamo andare a studiare le materie biologiche nel Dipartimento di Biologia e quelle geologiche in Piazzale Gorini, dove c'è ancora Scienze della Terra. E questa è stata un'infarinatura molto buona per me, anche se non avevo ancora le idee chiarissime di fare poi il paleontologo, anche perché posti di lavoro non ce n'erano. E quindi, però mi preparò bene, perché i fossili non sono altro che esseri una volta viventi, quindi di cui bisogna conoscere la biologia, che sono poi fossilizzati e quindi pietrificati, diventati materia minerale. Quindi a metà tra biologia e geologia, proprio come era scienze naturali all'epoca. E quando hai scavato per la prima volta? Ma io per la prima volta andavo da bambino nelle cave dell'altopiano di Asiago, da dove viene mio padre. E sono delle cave sfruttate industrialmente, ma la pietra da costruzione non è altro che un calcare del Giurassico superiore che contiene molte ammoniti, sono conchiglie, sono molluschi tipici di quel periodo, e ogni tanto denti di squalo e di ittiosauro. E l'idea di camminare su un mare che aveva 170 milioni di anni era incredibile. È cominciato lì, insomma, ai 170 milioni di anni, quindi giusto in piena epoca di dinosauri. Senti, noi pensiamo che i dinosauri siano soprattutto esseri viventi che sono stati appunto in Africa, piuttosto che appunto in Argentina, insomma lontani da casa nostra. Invece, sorpresa, Tu ne hai trovato uno qui da noi. Beh, io ho avuto la fortuna di studiarlo, non l'ho trovato io, l'ha trovato Giovanni Todesco, un privato cittadino. Tante scoperte sono state fatte da privati cittadini. Dici dove? E questo dinosauro è stato trovato a Pietraroia, in provincia di Benevento, ed è importante a livello mondiale ancora oggi. Quindi non solo per noi, perché è stato il primo dinosauro trovato in territorio italiano, ma ancora oggi è quello con i tessuti molli meglio conservati al mondo. Ha una varietà di organi fossilizzati, e questo perché era piccolo e quando è morto è stato ricoperto rapidamente dai sedimenti, trasportato all'interno di una laguna. Si chiama Scipionix samniticus, ma è noto con il soprannome giornalistico di Ciro. Certo, nome tipicamente campano. Certo, questo nome glielo diedero i giornalisti per caratterizzare la sua origine campana. Per i titoli viene molto meglio, Ciro, rispetto a Scipionix samniticus. Comunque era talmente piccolo, anche questo è stato uno dei motivi per cui non è stato riconosciuto come dinosauro all'inizio, per cui è rimasto 15 anni nella casa di questo scopritore. Raccontaci la storia di questa scoperta, che è molto rocambolesca. Una storia molto, molto lunga. Era un carnivoro? Era un piccolo predatore della famiglia dei Compsognatidi, quindi da adulto non sarebbe diventato poi tanto grande, non avrebbe superato i 2 metri. Però questo piccolo dinosaurino è vissuto soltanto una settimana o poco più. E grazie alla conservazione dell'intestino, oltre che di altri organi, abbiamo potuto addirittura ricostruire la cronologia della sua dieta. Cioè abbiamo trovato i resti del suo primo, secondo, terzo, quarto e quinto pasto. E cosa mangiava? Tutto questo è stato pubblicato in una monografia edita dal Museo di Storia Naturale nel 2011, e di cui gli autori siamo io e Simone Maganuco, validissimo collaboratore del nostro museo. E che cosa mangiavano i piccoli dinosauri? Abbiamo scoperto che questo dinosauro non era solo, tra virgolette, carnivoro, ma si mangiava anche pesci. E tra le altre prede c'è la caviglia di una lucertola grande quanto lui. Quindi questa, secondo noi, è una prova indiretta del fatto che fu nutrito dai genitori. C'erano cure parentali tra i dinosauri? Sì, sicuramente c'erano tra gli erbivori, tra i carnivori ancora non era ben chiaro, però questa lucertola è talmente, insomma, grande quanto lui, sappiamo che sono animali molto veloci e quindi probabilmente fu scelta una parte del corpo per nutrire il piccolo dinosauro che stava ancora nel nido. Ma quanto era grande questo dinosauro? Era lungo 50 centimetri, con una coda molto lunga, quindi il corpo è soltanto 23 centimetri. Una vita breve ma intensa, come si dice. Sì. Senti, ma che effetto ti fa di andare a mettere il naso in questo esserino? Beh, questo è stata un lavoro vertiginoso dal punto di vista del coinvolgimento mentale. È stata una vera autopsia, perché ogni giorno che pulivamo meglio di quanto avesse fatto, di quanto avesse potuto fare lo scopritore, il fossile, che essendo molto piccolo aveva bisogno di essere lavorato sotto un microscopio binoculare con degli aghi sottilissimi, abbiamo impiegato settimane, mesi per portare alla luce anche i resti molli, che avevano una consistenza intermedia tra la durezza dell'osso e quella della matrice rocciosa. Quindi anche se c'erano delle differenze di colore, bisognava stare molto attenti, perché non c'erano precedenti. Certo. E guardare sotto un microscopio a forte ingrandimento questo esserino con tutti questi resti, compresi muscoli, tendini, una cosa straordinaria, la parte cornea, insomma, delle unghie, era come sorvolare una catena montuosa di un pianeta sconosciuto, insomma. Un pianeta sconosciuto, che è appunto quello, il pianeta dei dinosauri, no? Come ce li immaginiamo noi oggi. Tra l'altro anche l'Italia era piuttosto diversa da come adesso, non è che fosse lì dove è stato, sì, trovato. Questo ritrovamento ha smentito, diciamo, la teoria un po' così, molto ha smentito una teoria che era questa la rifaccio. Questo ritrovamento ha smentito clamorosamente le credenze generali dei geologi, anche quelli italiani, che ritenevano che l'Italia fosse tutta sommersa dall'acqua nell'era mesozoica. essendo i dinosauri degli animali francamente terrestri, perlomeno gran parte di essi erano terrestri, questo indicava la presenza di terre emerse che non dovevano essere necessariamente grandi. In effetti si trattava di catene di isole tropicali, simili alle attuali Bahamas, che però i dinosauri a volte potevano attraversare quando il livello del mare si abbassava. Questo ce l'ha detto, confermato anche un recentissimo ritrovamento, quello che abbiamo soprannominato Tito, che è invece un dinosauro sauropode, un titanosauro lungo 6 metri che però non era ancora adulto. E questo dove l'avete trovato? Questo è stato trovato da un privato cittadino, sempre, Antonio Bangrazzi, vicino a Roma, mentre costruiva un muretto a secco, ha trovato delle ossa, tra cui una vertebra ancora inglobata in roccia. Io ho visto prima le foto e poi mi hanno portato le ossa. Le abbiamo estratte completamente dalla matrice e abbiamo trovato questo singolo elemento molto diagnostico, perché è una vertebra della base della coda di un gruppo di dinosauri che ebbe molta diffusione. I titanosauri, appunto, in Argentina, ne parlavamo prima, c'erano anche i più grandi del mondo, raggiungevano i 40 metri. Quindi 40 metri di altezza? Di lunghezza. Sì. Quindi qui di 6 metri era, se vogliamo, una forma relativamente minuta. E sì, quindi siamo a due dinosauri italiani, potrebbero essercene altri. Ma ce ne sono, ce ne sono altri. Sì, beh, siamo arrivati a 5 come numero. 5. E sono ancora pochi, però voglio dire, 20 anni fa sarebbe stato impossibile scrivere un capitolo sui dinosauri italiani o un libro, come poi alla fine è stato scritto. E quindi ci sarà ancora da scoprire qualcosa anche per le generazioni future. Cristiano Dal Sasso, allora un altro pezzo, un altro disco, Tunnel of Love, Dire Straits. Dai, raccontaci perché. Beh, questo è un periodo della mia adolescenza in cui il periodo del liceo classico in cui sono stato catturato dalla musica rock, anche se questo era un rock, diciamo così, da bravi ragazzi, però in cui è entrato fortemente nella mia testa non solo il pensiero dei dinosauri, ma anche quello dell'altro sesso della nostra specie. Perché no?

Insomma, Mark Knopfler è sempre Mark Knopfler, la sua chitarra è qualcosa di straordinario. Non ce la facevi a sfumarla, era lì. Roberto con il dito sul mixer, ma non riusciva assolutamente a convincersi che era ora di interrompere. È così. Senti, Cristiano, allora, la cosa che mi interessa capire e che in genere faccio come domanda a tutti gli scienziati, al di là della formazione, puoi dire, scolastica, no? che ti porta poi a scegliere, ad avere degli interessi e orientarti poi per il futuro, c'è qualcosa di molto personale, c'è stato qualcosa di molto personale nella tua vita che comunque è stato determinante nella scelta? Cioè, voglio dire, di cose non ufficiali, voglio dire, dalla musica, piuttosto che una lettura, piuttosto che, chissà, l'incontro di una persona. È successo così o no? Beh, io avevo tentato varie strade per la tesi di laurea, tra cui quella dell'acquario di Milano, perché tra le altre passioni che ho c'è quella per l'idrobiologia. Ho un acquario a casa, lo avevo fin da ragazzo, eccetera. Però poi all'acquario andò male, non mi presero come guida. Ero molto timido, ero molto probabilmente non rendevo nel tentare di spiegare agli studenti quello che dovevo, esatto. E quindi poi a ruota sono capitato al Museo di Storia Naturale, dove ho incontrato Giorgio Teruzzi, che era già paleontologo lì e che per caso abitava nel paese in cui abitavo io, in Brianza. E quindi, diciamo, ci fu un aggancio che rendeva anche questo posto meno anonimo, e anche se poi la tesi la feci con un suo collega, perché mi interessava studiare i vertebrati fossili, e tra l'altro fu una tesi molto interessante perché riguardava fossili che si trovano anche sotto i nostri piedi, resti di mammiferi, tra cui anche mammut, rinoceronti lanosi, bisonti, che in modo incredibile per noi, se vogliamo, popolarono la pianura padana prima degli esseri umani. Perché nei sotterranei del Museo di Storia Naturale c'è un infinito mondo, no? di fossili e di reperti, sì, che voi studiate, su cui i ragazzi che fanno la tesi poi... Beh, d'altra parte non abbiamo lo spazio per esporre tutti questi reperti nelle sale dedicate, diciamo, visibili dal pubblico. E dall'altro esistono le vere e proprie collezioni di studio, tutti i musei le hanno, in cui ci sono migliaia di esemplari che possono essere visti e studiati da colleghi di altri istituti che vengono appositamente da noi. Naturalmente col personale a disposizione è impossibile coprire tutti i rami di conoscenza delle stesse scienze paleontologiche, per cui ci sono esperti di vari gruppi fossili che vengono ed esaminano di volta in volta reperti magari non ancora studiati. Quindi a volte le scoperte si fanno non sul campo, non nei giacimenti, ma nelle collezioni, tra virgolette, dimenticate, nei cassetti di alcuni musei. Questo la dice lunga, insomma. La dice lunga anche perché anche qui, insomma, ci sarebbe bisogno di un personale molto più numeroso, insomma, no? Io credo. Sì, ci vorrebbero per esempio dei curatori di collezione che noi non abbiamo, anche semplicemente per mantenere gli esemplari nell'ordine giusto, inventariare quelli che non lo sono ancora, eccetera. Ma se un privato avesse interesse a visitare appunto queste collezioni, lo può fare o no? Ogni tanto facciamo degli open day e delle visite guidate in questi luoghi, diciamo, dietro le quinte del museo. Collezioni, laboratori, perché non è scontato, non tutti sanno che il Museo di Storia Naturale non è soltanto un luogo di esposizione, ma anche un luogo di ricerca, dove si studia, dove si pubblica, dove si sviluppano nuove conoscenze. E oggi questi luoghi sono importanti in un momento in cui la biodiversità si sta perdendo, in cui stiamo vivendo la sesta estinzione. Pochi ci pensano, ma ogni giorno scompaiono decine di specie animali e vegetali, alcune delle quali non ancora nemmeno studiate o classificate. Pensate cosa c'è nelle foreste pluviali. E però, come diceva Roberto, siete in pochi a farlo. In un museo come il Museo di Storia Naturale, se confrontiamo con altre realtà all'estero, la truppa che avete a disposizione è Sì, perché è un museo grande e quindi ci sarebbe bisogno soprattutto di personale tecnico in più, se ci vorrebbe. Si fa fatica. Si fa fatica perché devi fare tu, comunque poche persone devono, sono sempre le stesse che fanno dal piantare il chiodo alla redazione della rivista, insomma. One man band, anche lì, insomma. Più o meno. E quindi da allora sei sempre rimasto lì? Io sono sempre rimasto lì, io sono entrato nel 1990, 2 anni dopo la laurea. Sono stato fortunato, anzi io mi sono laureato nel 90 e a settembre poi è uscito un concorso. C'era un posto libero come tecnico di laboratorio e decisi di partecipare comunque, anche se avevo già la laurea, perché era comunque un modo per entrare nel giro. E mi ha aiutato molto, tra l'altro, poi nel mio lavoro di ricerca a fare il preparatore di fossili, perché ancora oggi sono in grado di distinguere bene cosa è un artefatto e cosa è invece prodotto della fossilizzazione naturale. Cos'è un artefatto? Cioè cosa è un prodotto, diciamo, di, non so, di un incollaggio o una forma ridefinita dal contorno scavato intorno al fossile rispetto al fossile stesso, eccetera. Qui si entra perché sui fossili bisogna fare un lavoro di preparazione, viene detto restauro in archeologia, ma fossili non escono mai dal giacimento già belli puliti come li vediamo nelle vetrine. C'è dietro un lavoro lunghissimo, a volte di migliaia di ore. A proposito di migliaia di ore, ce n'è uno che ti ha, un lavoro che ti ha occupato veramente per tantissimo, te e evidentemente la tua squadra, insomma. Sì. Vuoi parlarci? Eravamo all'epoca eravamo in più o meno tra le primi lavori di incollaggio delle lastre come uscivano dallo scavo e poi il lavoro finale. Ci abbiamo lavorato in 3, 4, 5 persone per un totale di 5 anni. E io avevo preparato delle schede da compilare per ognuno dei preparatori, di modo che ogni giorno si scrivesse quante ore si era lavorato, se con la microsabbiatrice, se per incollare, se per lavorare manualmente. Questo fossile si chiama Besanosauro e un suo calco è esposto al Museo di Storia Naturale. È un ittiosauro femmina con gli embrioni in pancia, è morta prima di partorire. Ittiosauro vuol dire che non era un dinosauro, era un rettile marino. Era un rettile marino molto simile ad un delfino nella forma del corpo. Okay. E ha 238 milioni di anni. Quindi prima dell'inizio dell'avventura. Ebbene, dei dinosauri. Ma il carbonio 14 è sicuro come datazione? Non arriva a queste epoche così antiche, ci vogliono altri isotopi che hanno un decadimento più lento. In questo caso la datazione è stata fatta con metodi indiretti sulla base dei microfossili contenuti in questi strati che sono ben conosciuti, sono i livelli bitupinosi di Besano Monte San Giorgio, un giacimento al confine tra Italia e Svizzera, in provincia di Varese. Beh, alla fine per questo ittiosauro abbiamo impiegato 16.500 ore di lavoro per estrarlo non a tutto tondo ma a mo' di basso rilievo, quindi lasciando una base di roccia su cui giace. Ed è un animale del quale sappiamo ancora solo fino a un certo punto. Perché... Vabbè, è una nuova specie, l'abbiamo battezzato Besanosaurus leptorhynchus. Besanosaurus, perché è stato trovato a Besana? Sì, a Besano, sì. Lo studiamo io e l'allora direttore del museo, Giovanni Pinna, che fu il primo paleontologo divulgatore in Italia. Scrisse dei libri importanti che... naturalmente, c'era pochissima letteratura di paleontologia all'epoca. E tra i libri che era necessario leggere per capire qualcosa di più c'erano quelli di Giovanni Pinna. Senti, c'è anche una storia personale, come dire, drammatica questo. Perché nel 1995, quindi soltanto 5 anni dopo la mia assunzione al Museo di Storia Naturale, tornando da questo scavo, avendo lavorato molto e dormito poco, con l'ittiosauro davanti agli mi sono addormentato al volante mentre guidavo e mi sono risvegliato con il muso della mia auto che aveva infilzato un guardrail in autostrada dalle parti di Legnano. È un vero e proprio film horror vissuto con la mia vita, il mio corpo, la mia anima in quel momento, perché questo guardrail mi aveva amputato il piede destro e parte della gamba, quindi ho immaginato tutto il resto della mia vita su una sedia a rotelle. Non era scontato che sopravvissi perché avevo perso molto sangue. E non sono svenuto, ma mi sono svegliato nel botto, per cui ho vissuto tutto in prima persona, finché poi non mi hanno operato. E il giorno dopo c'è stato un altro rischio, un'embolia polmonare, perché avevo il femore rotto in tre pezzi, e quindi mi hanno dovuto rioperare e sono finito in coma per una settimana. E però invece adesso cammini. Adesso cammino e non conoscevo l'esistenza di queste protesi stile Pistorius, e tutto quello che ho fatto, tenete conto tutto quello che ho fatto nella mia vita, anche lavorativa, compresi scavi in Marocco, in giro per il mondo, l'ho fatto grazie a questi incredibili mezzi della tecnologia moderna e grazie alla passione che mi ha tenuto in vita veramente. E vabbè, capisco l'emozione del racconto. Senti, la cosa, come dire, altrettanto bella, curiosa, devo dire, molto curiosa, no? Che il tuo ritorno alla coscienza è legato anche a una canzone. È una canzone, sì. Tra l'altro, insomma, che uno magari non si sarebbe mai andato ad ascoltare. Una canzonetta, devo confessare, però poi vi spiego quali sono le sensazioni che ho provato. Vabbè, intanto ce l'ascoltiamo. La canzonetta che ha sancito il ritorno alla coscienza, appunto, di Cristiano, è questa di Raff, che si chiama Sei la più bella del mondo. Insomma, sei la più bella del mondo, queste note a un certo punto le hai ascoltate, le hai sentite uscendo dal buio, insomma. Eh sì, io sono nato davvero due volte. Ah. E la seconda data di nascita per me è il 18 giugno del 1995. Con Raff. Ovviamente, poi in realtà era passata una settimana, ma questa è stata assolutamente, sono stati i primi suoni che sono entrati nuovamente nelle mie orecchie dopo un silenzio totale, direi il vero silenzio totale, perché noi siamo ormai abituati a sentire sempre un rumore di sottofondo nelle nostre orecchie, invece nel coma io ero completamente separato dal mondo. E queste note per me, entrando nelle mie orecchie, mi davano l'idea che ero vivo, e in secondo luogo le potevo, erano talmente limpide che le potevo toccare con le mani quasi in modo tridimensionale sul pentagramma, non so come riesco a spiegarvi questa cosa. Ad ogni modo, poi ho aperto anche gli occhi, ho visto l'infermiera che mi guardava e una delle assistenti della terapia intensiva e ho capito che ero lì, che ero vivo. E da lì è cominciata la tua seconda vita di ricercatore, di scienziato e la tua storia di scoperte. Sì, c'era già Ciro parcheggiato già. Nello studio. Che aspettava che tu tornassi. Che aspettava e poi è finito in copertina su Nature, che è stata una cosa fantastica, clamorosa per la paleontologia italiana e anche per me personalmente. E poi questo Besanosauro, praticamente la metà dell'articolo scientifico l'ho scritto mentre ero in ospedale. Non potevi lasciare a metà il lavoro. E questo mi ha aiutato tantissimo mentalmente a uscire da questo dramma, anche perché, insomma, il tuo corpo non è più quello di prima, senti proprio col cervello una asimmetria che non è naturale. Senti, ma tu li studi e quindi è chiaro che ne sei così fortemente affascinato dai dinosauri, ma secondo te perché tutte le persone sono affascinate dai dinosauri, bambini più di tutti ancora? Che cosa hanno? C'è sicuramente l'idea del drago medievale, l'idea del mostro che comunque aleggia nel nostro istinto, nell'immaginazione di tutti, quindi non viene, cioè da un certo punto di vista viene risvegliato una paura, un pensiero ancestrale, ma diventa concreto per il fatto che i fossili sono una prova scientifica del fatto che questi animali sono esistiti prima di noi. Anche se ce li hanno sempre presentati contemporanei all'uomo, no? Perché nei film, cioè nei fumetti, ci sono queste cose di sinergie impossibili, però insomma... Beh, se è un po' old style oggi, per fortuna, non, diciamo, le conoscenze sono tali che si capisce che il tempo geologico è davvero un tempo lunghissimo che ci separa da loro. Fred e Wilma, no? Gli antenati, insomma, sono solo nella nostra memoria. Cioè, l'altra cosa bellissima dei dinosauri però è che non smettono veramente mai di stupirci, cioè non finiamo mai di conoscerli, non finiamo mai di capirli, cioè li immaginavamo dei rettili coperti da squame, corazze, adesso invece hanno le piume... No? Erano sì, colorati, certamente queste cantavano. Scoperte recenti, questa ondata di dinosauri pennuti venuta dalla Cina, dove hanno trovato dei fossili veramente clamorosi con scheletri, tra virgolette, da Velociraptor con l'impronta delle penne tutto intorno. Questo ha fatto capire che la mancanza di penne in dinosauri di altri luoghi del mondo è dovuta ad un difetto, diciamo così, nella fossilizzazione. Cioè in realtà molti, non tutti, ma i dinosauri che hanno poi portato alla comparsa degli uccelli avevano già pre-sviluppato le penne. Allora, siamo in chiusura ed è doveroso parlare della scomparsa dei dinosauri, ovviamente, no? Si sa poco. Sì. Parliamo suppone. Dicendo che non sappiamo ancora perché sono scomparsi. Cioè, meteorite. Sono tantissime teorie, quella del meteorite è la più plausibile, ma secondo me personalmente è stato solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso di un ecosistema già in crisi, messo in crisi anche da altri fattori naturali, tipo deriva dei continenti, cambiamento delle correnti oceaniche, maggiore regionalizzazione del clima. Calotte polari che prima non c'erano e poi sono comparse. Comunque sì, insomma, la loro scomparsa è stata la fortuna dei mammiferi in qualche modo, no? Assolutamente sì, se non fossero scomparsi loro, oggi magari qui ci sarebbero dei dinosauri sì, che parlano al microfono, intelligenti però. A parlare dei mammiferi mai evoluti. Va bene, senti, siamo davvero in chiusura. Grazie Cristiano Dal Sasso. Grazie a voi. Paolo, mandiamo l'ultimo pezzo che ha scelto naturalmente Cristiano. E se ne assume la responsabilità. Sì, sì, allora questa canzone, se vogliamo, lo dico io, un po' nazional popolare, però esprime un po' il mio cuore latino e l'ho cantata al mio matrimonio di fronte a mia moglie Daniela, per cui saluto lei e i nostri due figli che ci danno anche tanta forza, Silvia e Stefano. Magnifico. Lui è De Crescenzo. Grazie Cristiano. Saluti. ti penso e più ti voglio. Tutto il casino fatto per averti, per questo amore che era un frutto acerbo, e adesso che ti voglio bene io ti perdo ancora, ancora, ancora, perché io da quella sera non ho fatto più l'amore senza te. Anche se incontrassi un angelo. Allora, termina qui anche questa settimana, rimandati a settembre. Paolo, noi la prossima settimana con chi ci sentiamo? Ma vediamo un po' di che cosa vogliamo parlare la prossima settimana. Parleremo probabilmente di genetica oppure di robotica, uno di questi grandi temi che stiamo tenendo in serbo per l'estate. Va bene, allora alla prossima, settimana, Roberto Caselli, Paolo Magliocco e Cristiano Dal Sasso vi salutano, grazie per l'ascolto, a presto, ciao a tutti. Tirare sassi alla finestra accesa, prendere a calci la tua porta chiusa, chiusa ancora.